d'alme nostre e che non puote amore. Io che le notti intere arsi e gelai sulle più dotte carte, ora servo d'amor veggio in satira soffrir, ne oso scoprirlo il mio destino. Ai quante volte, ai quante dell'interno mi ardore occulta fiamma, in dolci carni espressa ed armoniche note fidai per far palese il mio tormento. Allor che vien sovente per diletto del canto a me la bella, ma frenommi timor, amor nemico, e sol mi resta ancora l'infelice contento di riandare i miei casi e i mali miei. Questo solo è il piacere d'occulto amore, ridir la pena e giunger pena al core. Ah, se l'ardere amor tacer dove, col fomento del suon coda il pensiere. Seguir col canto, godi pur dei tuoi diletti, anche a prova il tuo poder, anche a prova il tuo poder. Principessa, hai vista? Segui, non ti turbar, ch'io pur se vuoi muoverò il labbro e il canto. È questo il tempo di far nato il mio amor coi carmi miei. Se t'aggrada, ubbidisco. Questi armonici versi or dunque prendi e attenta, i sensi espressi osserva e intendi.